dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha. Radio Libri Amoci Web. Libera, solidale, divertente. Tra le righe. Libri, autori, consigli di lettura e non solo, con Adelaide Spallino. Bentornati a Tra le righe. Dedichiamo la prima parte di questa puntata a Alice Munro, l'82enne scrittrice canadese fresca di Nobel per la letteratura. Alla buon'ora, diciamo noi. Alice Munro, che è la 13ª donna a ottenere questo importante riconoscimento, ha sempre avuto l'amore per la scrittura. Jonathan Franzen, in una raccolta di saggi, l'ha definita la più grande scrittrice vivente del Nord America. Ma non tutti sanno che la Munro nel 1963, con il primo marito, del cui ha tenuto il cognome anche dopo il divorzio, ha aperto una libreria a Victoria, la Munro's Book, tuttora esistente. Aveva 36 anni quando l'editore canadese Rison Press pubblicò la sua prima raccolta di racconti, Dance of the Hippie Shades, edita in Italia da Einaudi col titolo La danza delle ombre felici. Le sue storie, dove i protagonisti sono quasi sempre donne, sono ambientate nella contea canadese d'origine. Finora ha scritto 14 raccolte, tra queste Chi ti credi di essere, in cui i racconti danno forma a un vero e proprio romanzo e dove lo stile della neo premio Nobel scorre sotto gli occhi innamorati del lettore. Stile sospinto anche dall'opera della traduttrice italiana Susanna Basso. Il ritmo è suadente ed è la culla di una narrazione piena di atmosfera. Alice Munro, difatti, rende divinamente le dinamiche sociali dei luoghi in cui si svolgono le sue storie, i piccoli paesi, dove la vita scorre tra delicati equilibri. Ed è abilissima nell'analisi introspettiva dei personaggi, pieni di sfumature e dettagli che li rendono vividi e vivi. Il premio Nobel a Alice Munro potrebbe essere una svolta per il mondo dell'editoria, che bistratta i racconti preferendo di gran lunga i romanzi. Dunque, questa specie di figli di un dio minore dell'editoria potrebbe cominciare a ricevere le attenzioni che merita. Andiamo al libro di oggi, che è Il posto dei miracoli di Grace McMillan, pubblicato da Einaudi. Il posto dei miracoli è la storia di una ragazzina di 10 anni, Judith McPherson, che vive con il padre, un fervente fratello di una setta che costringe i membri a fare proseliti con il sistema del porta a porta in attesa dell'Armageddon. La loro vita non è all'insegna della popolarità. Il padre si rifiuta di partecipare allo sciopero indetto dal sindacato operaio della fabbrica in cui lavora e lei, Judith, deve vederselo ogni giorno con il bullo della classe che l'ha scelta come vittima. Judith non sa come fare, ma in suo aiuto arriva la sua capacità di immaginare, di desiderare, potente e magica come la sua fede, che dà vita a una serie di miracoli. Per questo Judith si convince di essere strumento prediletto di Dio. Grace McLean, cresciuta come la sua protagonista in una setta cristiana fondamentalista del Galles, usa lo sguardo leggero e divertente di una decenne fuori dal comune per raccontare una storia che scuote ogni convinzione. Il punto di vista del giovane narratore ci conduce attraverso una scrittura infantile alla ricerca di risposte, risposte alle grandi domande dell'esistenza, ma proprio perché cercate e forse trovate da una bambina di 10 anni risultano tanto essenziali e semplici quanto vere. Spazio e tempo si dilatano nella mente del narratore fino ad annullarsi, catapultando il lettore dal mondo magico di Judith a quello reale, ma forse troppo austero, del padre. Lo sguardo privilegiato, infantile, curioso, ma altrettanto lucido ed attento ai dettagli, disarma e fa riflettere. Il niente e il vuoto con cui Judith comincia il suo racconto è in realtà un vuoto dell'anima lasciato dalla morte della madre e dall'assenza ostinata del padre. Judith cerca disperatamente di colmare questa voragine nella sua vita, creando e ricreando nella sua camera un mondo ideale dove tutto è possibile, basta volerlo. Questo mondo viene creato con materiali di scarto e rifiuti perché in realtà essa stessa si considera rifiuto. Judith si sente rifiutata dal padre, dai compagni, dalla società. In questo contesto la religione e la fede sono in un primo momento ancora di salvezza, verità assoluta, risposta all'impossibile. Ma Judith e il padre sono costretti a confrontarsi quotidianamente con un mondo reale e le loro difficoltà sono talmente vere, concrete e pratiche che soltanto nel momento in cui si distaccheranno dal trascendente riusciranno ad affrontarle. Il recinto che il padre costruisce, alto, forte, invalicabile, è da una parte il solo modo che trova per proteggere la figlia, ma dall'altra è metafora e conclusione di quella chiusura e ghettizzazione che la religione gli ha imposto, qualcosa che oscura l'esistenza dei due personaggi, che li mura vivi in un mondo a sé stante. Soltanto quando il recinto verrà smembrato, l'amico invisibile di Judith, Dio, scomparirà per sempre, lasciando il posto ad un amore sincero, reale, tra padre e figlia. Il posto dei miracoli è un libro sulla ribellione, una ribellione intima, piccola come l'età della bambina, ma potente come la forza dell'innocenza. La recensione del posto dei miracoli è a cura di Paola Cutrò, nostra socia nell'associazione Clarite. E noi ci sentiamo alla prossima. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata e vi ricordano che questo programma è realizzato nel rispetto dell'articolo 70 della legge 633 sul diritto d'autore. Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente.